Allora iniziamo, buonasera signore, buonasera signori, vi do il benvenuto da parte di tutto lo staff della Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta e anche da parte della nostra direttrice, la dottoressa Trevisan, che purtroppo stasera non riuscirà ad essere presente. E do il benvenuto anche a Gianfranco Mattera. Io sai come l'ho scoperto? Ho sentito prima l'intervista alla radio e lì ho scoperto la scena. Perché anch'io avrei detto come te. Attenzione, allora tutti avrebbero detto Mattera, invece no. Adesso, che ci presenterà il suo secondo romanzo, vero? E diamo il benvenuto anche a Giovanni Accardo, scrittore, professore e molto altro, che insomma questa sera è qui in veste di moderatore. E vi ricordo i nostri due prossimi appuntamenti, sempre qui al Trevi. Giovedì alle 18 ci sarà una conferenza di Marco Pugliese su Bolzano e sulla genesi della nostra città. E lunedì invece prossimo, il 28, sempre alle 18, presenteremo la traduzione italiana delle storie di Max und Moritz. Quindi speriamo che possano interessarvi anche questi nostri prossimi appuntamenti. Prego. Grazie. Allora, dunque, Gianfranco Mattera arriva da Ischia, dal sud, e vive a Trento, dove lavora come assistente sociale. E forse i temi del suo primo libro sono dei racconti Anna e Burattini, pubblicati da Curco Genovese. Il racconto che dà il titolo al libro ha vinto anche il premio Frontiere Grenzen, forse arrivano anche da questa esperienza professionale. Vorrei cominciare, visto che non ti conosciamo, chiedendoti come sei arrivato alla scrittura. Ma la classica domanda è: perché scrivi? Perché scrivo? Domandona. Prima di tutto perché la scrittura è terapeutica. E quindi da ragazzino, vivendo in sud, perché Ischia si conosce come una un'isola del turismo, quindi della bella vita, delle terme, del mare, però viverci è del tutto differente, no? È come la montagna è bella, ma vivere in montagna non è per nulla facile, no? E quindi Ischia non dà tante possibilità di crescita, di incontrare altri mondi, per cui scrivere all'inizio è stato terapeutico, no? E quindi parlare a se stessi, dirsi delle verità, penso che a tutti faccia bene scrivere prima di tutto. Da qui poi a pensare di scrivere ed essere letto ci passa il mondo, perché devi studiare, devi leggere tanto, soprattutto poi devi avere la curiosità, secondo me, per quella che è la struttura, e quindi cosa c'è dietro un racconto o un romanzo, cosa vuoi raccontare, come lo vuoi raccontare. Lì veramente c'è il mondo delle possibilità, e ogni volta che fai una scelta particolare ti concentri su quella piccola parte mettendo da parte tutto il resto, no? Non so se ho risposto. Sì, no, mi veniva in mente un racconto di Silvio D'Arzo, che è contenuto nel volume Casa d'Altri, in cui c'è il narratore di un racconto che dice: ho passato i 2 anni più belli della mia vita a scrivere un romanzo, ed è una cosa che consiglio a tutti, certo. Indipendentemente dal fatto che venga o non venga pubblicato, comunque scrivere è già di per sé un'attività comunque importante, appunto, come dici tu, terapeutica, perché comunque ti aiuta a elaborare le tue emozioni, i tuoi pensieri, le paure, eccetera. Io lo uso anche molto nel lavoro, quindi con le persone che vengono da me, nel momento in cui fanno fatica a dirsi delle verità, allora va bene, tieni un diario, inizia a parlare a te stesso, e poi dopo magari riusciamo a dirci, a fare il passo successivo, quindi si va per grande. Senti, parliamo di questo romanzo. Il tuo primo libro sono dei racconti, questo invece è un romanzo. Un romanzo a due voci, potremmo dire due diari che poi si incrociano, o un dialogo prima a distanza e poi che diventa un vero e proprio incontro. I protagonisti sono una bambina che si chiama Marguerite, siamo a Parigi, siamo a metà degli anni 70, l'altra protagonista invece è una signora di una certa età che si chiama Babette. Come nasce questo romanzo? Da quale idea? Anche perché è un'ambientazione, diciamo, estranea alla tua biografia, Parigi. Come è nata l'idea di questo romanzo? Ma dalla passione per la storia, dalla passione per le vicende che hanno legate al nazismo, e quindi senza svelare poi troppo, come dire, i fiori di Parigi rappresentano un po' quella possibilità per cui anche nella difficoltà qualcuno può avere un pensiero per noi, no? Quindi proprio durante la guerra, nel momento dell'occupazione, quindi di massima impossibilità di raccontare ciò che stiamo vivendo, la possibilità di invece incontrare gli altri, di avere un pensiero buono per gli altri, no? E quindi i fiori i fiori di Parigi, altro che non sono che quei fiori deposti sotto i manifesti rossi con cui il nazismo dava menzione e notizia di chi erano i condannati a morte della resistenza. Ma mi piace anche dire che i fiori di Parigi in realtà sono i personaggi, e i fiori di Parigi sono questa bambina, perché questa bambina a distanza di tanto tempo riesce con la sua forza propulsiva e quindi di una nuova vita che non ha vissuto certe cose, ma che vuole recuperare una memoria attraverso il proprio genitore, in questo caso la mamma, perché ne ha bisogno per proiettarsi nel futuro, quindi sapere da dove vengo per andare dove, e quindi da qui nasce la possibilità di crearsi un mondo diverso, una possibilità nuova. Come mai l'ambientazione a Parigi e non a Napoli, a Roma o in un'altra città? Ma forse non a caso anche gli ultimi avvenimenti che stanno capitando a Parigi negli ultimi anni, come quelli di allora, fanno sì che Parigi non venga più accomunata a quella storia, quindi alla storia dell'occupazione in questo caso, a una storia invece che poi si è persa, se vogliamo, perché Parigi nella nostra, come possiamo dire, nel nostro immaginario è qualcosa di diverso: il turismo, la Torre Eiffel, altro. Ecco, e quindi mi piaceva recuperare quel posto visto in altro modo oggi, dal consumismo, se vogliamo, dal turismo vacanziero piuttosto che culturale, e quindi restituire quella memoria. Tu stai parlando di memoria, in realtà siamo, la storia è al presente ma negli anni 70, siamo a metà degli anni 70, e però ci sono inizialmente uno dei due protagonisti, cioè Babette, che è legata al periodo dell'occupazione nazista di Parigi, poi scopriremo c'è invece un altro personaggio tormentato dai ricordi del passato. Come mai però questa rievocazione è un doppio passato, perché non è la Parigi di oggi ma è la Parigi degli anni 70? Perché proprio la Parigi degli anni 70? Perché in quel momento storico c'è stato un passaggio in cui secondo me è fondamentale l'aver perso quella memoria, quel pezzo di storia, ossia in un certo senso l'abbiamo voluto mettere da parte, in realtà dovrebbe essere ben presente tutt'oggi, no? E quindi mi interessava andare a ritroso a vedere gli avvenimenti di quel periodo che sono presenti nel libro, per capire perché ci dimentichiamo di certe cose, perché non sono più importanti, ma anche con leggerezza, perché poi la bambina si muove con tanta leggerezza, no? È questo che dà un po' equilibrio in storie tormentate come quelle della signora Babette, e anche della madre della bambina, che poi fuoriuscirà dentro, perché il motore propulsore della storia è questa donna che non si racconta. A me interessava raccontare in questo libro chi ha vissuto una deportazione, chi ha vissuto la sottomissione a quel regime e che non ha avuto la forza di raccontarlo, perché ci sono tanti che hanno raccontato. E qui mi riallaccio ad oggi, tante persone vivono una sofferenza, perché io faccio tanto questa similitudine ad oggi, a me interessa tanto, no, questo passaggio, nel senso di dire tanti vivono delle sofferenze e non riescono a parlarne, piccole o grandi che siano, abitiamo vicini, ci conosciamo, ma in realtà poco, perché non conosciamo fino in fondo l'altro, purtroppo. Ed è quello che succede in questa storia. C'è questa bambina che però usa la sua età anche con prepotenza, perché deve sfondare dei muri, un po' l'abbiamo fatto tutti, e quindi dobbiamo andare contro la regola in un certo senso. Ma andare contro la regola in questo senso è una salvazione, perché ci dà la possibilità di incontrare l'altro attraverso qualcosa di bellissimo qui, che è la musica, che tiene in vita questa signora, perché questa signora poi, lo diciamo, ogni sera alle 6 di sera ha il suo appuntamento di un'ora con la musica, suona, questa bambina è attratta da questa musica. La musica è uno strumento per conoscersi, non è solo ascoltare. Dunque, il romanzo è costruito a capitoli alternati e ogni capitolo porta il nome della voce narrante. Un capitolo è raccontato da Babette e un capitolo è raccontato da Marguerite. E in questo alternarsi c'è anche l'alternarsi di passato e presente. Quando dico presente dico sempre la Francia del 74. Magari leggo qualche pagina così diamo un po' idea della struttura e anche della lingua con cui il libro è scritto. Allora, questo è il capitolo in cui a parlare è la piccola Marguerite Dumas. Fa caldo, c'è afa e papà ha cominciato dal primo mattino davanti al pane e marmellata. La settimana scorsa un Tupolev TU-144S al Parier Show si è spezzato in volo ed è precipitato in fiamme oltre Goussainville. Papà non si capace dell'accaduto, 8 morti, una scuola distrutta, 15 case bruciate, il fumo visibile a chilometri di distanza. Poi ci è toccato scirupparci i soliti proclami su Pupù Pulidor. Manca meno di un mese alla partenza del Tour de France e papà è già in fibrillazione. L'onore della Francia e dei francesi è tutto sulle sue spalle, nei suoi polpacci d'acciaio, nella resistenza dei suoi polmoni, nel suo cuore grande. Papà prevede che scatterà sulle prime salite, 2 colpi sui pedali e partirà in fuga. Si inerpicherà come uno stambecco sui colli della Madeleine e del Telegraph, seminando uno per volta gli avversari. Salto magari un pezzettino. Non contento, papà a pranzo ha dato il meglio di sé con gli scioperi. A inizio maggio gli studenti sono scesi in piazza contro la riforma del primo ciclo universitario. Qualche giorno fa gli operai della LIP nella fabbrica di Besançon hanno minacciato la serrata. Tutto infervorato ci ha spiegato che il mercato degli orologi è in crisi per colpa delle industrie asiatiche. Io infilzo gli spinaci e litigo con la bistecca impanata. Mamma mi dà i nervi, pare che tutto le scivoli addosso, assorta come nei suoi pensieri. Philippe, lui che può, se l'è svignata sotto il tavolo, scodinzolando annoiato. Papà è entusiasta e straparla, anche alle poste ci si sta mobilitando in massa. Parigi è in continua agitazione. Il mese scorso i movimenti femministi hanno scioperato, pretendendo parità di diritti. Dopo un po' non ho capito cosa sia successo. Ero ancora alle prese con quegli stupidi spinaci bolliti e la carne che proprio non mi vanno. Papà ha pronunciato la parola aborto e mamma, senza un motivo apparente, è scattata in piedi piangendo. Si è scoperta le braccia e ha cominciato a strofinarsi sotto l'acqua che scorreva a tutta forza nel lavandino. Non l'avevo mai notato. Ha dei numeri tatuati sull'avambraccio sinistro. Con il sapone non vanno via. Papà l'ha raggiunta e l'ha cinta da dietro in un abbraccio forte forte. Mamma non si è fermata. Papà le ha urlato, basta Sara, basta, c'è la piccola. Mamma ripeteva tra un singhiozzo e l'altro, i bimbi nel campo. Allora c'è questo primo punto di vista, che è il punto di vista di una bambina che per certi versi sembra molto più grande della sua età, molto, molto curiosa. Anche lei, scopriremo nel libro, ha perso qualcosa, il suo gatto, aspetta il ritorno del gatto, come dopo vedremo anche Babette aspetta il ritorno di qualcuno. E c'è il padre che fa un po' un personaggio che ti permette di costruire appunto l'ambientazione storica. A proposito, ti sei documentato, hai fatto delle ricerche, raccontaci come hai lavorato. Sì, diciamo che il romanzo è un'ambientazione storica che mi ha richiesto un anno di ricerca, perché mi interessava che tutto fosse reale, no? Che i personaggi fossero calati in un preciso momento storico di fermento e di movimento, e che tutto quello che andiamo a leggere è veritiero, cioè è successo in quel momento. Dopodiché, cosa mi ha colpito nella storia, che poi un po' è andata via da sé, no? È questa bambina che sì, sembra un po' più grande, in realtà non lo è. In realtà le mancano dei pezzi, è come se tu costruisci una casa senza avere delle fondamenta, no? E quindi lei ha disperato bisogno di recuperare questi pezzi, e non può che recuperarli nel rapporto con i genitori, dove però questo rapporto è inficiato dal fatto che i genitori sono talmente presi da loro stessi, la mamma dalle proprie sofferenze, il papà dal quotidiano, dal proprio lavoro, dalle lotte che ci sono nei sindacati, da non riuscire a vedere sta bambina, e quindi da non cogliere la bellezza di questo sguardo che si affaccia al mondo, e quindi nel non riuscire a restituirgli che cosa? La sua età, semplicemente, il suo prenderla per mano e accompagnarla a vedere, a crescere, a conoscere. E quindi è un salto all'indietro di questa bambina nel dover recuperare queste cose, perché non gliele dà nessuno. Se ai nostri figli non parliamo, se non gli diamo delle certezze, se non gli diamo dei contesti in cui potersi riconoscere, fa fatica nel crescere. Quindi questa bambina in realtà non è cresciuta, è in apparenza. Ma perché non è in apparenza? Perché in qualche modo mi devo relazionare con il mondo, devo comunque confrontarmi con gli altri, e però lo faccio con gli strumenti che io mi sono creati, e gli strumenti che lei si è creata, vedremo e scopriremo nel romanzo, sono altre persone che non sono i suoi genitori, quindi i punti di riferimento costanti che un bambino dovrebbe avere, ma altre persone che lei è andata a cercarsi. Ecco, in questa parte che ho letto incontriamo appunto i genitori, e in particolare la madre, che è un personaggio per molti versi misterioso, soprattutto per la bambina, perché come dicevi tu alla bambina mancano dei pezzi per capire, per esempio, cos'è quella scritta che ha sull'avambraccio, che non si cancella neanche a lavarla col sapone. E poi questo misterioso personaggio che ogni tanto va a casa a incontrare la mamma e il rabbino, ma lei non sa cos'è un rabbino, anzi forse sospetta che sia un amante della mamma. Ecco, come dicevi tu, Sara, la mamma, è questa donna che non riesce a elaborare, a raccontare questo trauma, questo dolore che ha vissuto, che è quello della deportazione nei campi nazisti. Dici qualcosa in più senza svelare nulla che sottragga al presente il gusto poi della lettura del libro? Sì, diciamo che c'è questo bisogno disperato della bambina di conoscere, di incontrare la madre, di conoscerla, anche di aiutarla, perché vede che non sta bene, no? E allora è eccezionale questo che fanno i bambini, io lo vedo tutti i giorni nel mio lavoro, no? E quindi preoccuparsi che ogni cosa che viene detta loro viene detta perché loro non sono capaci o non hanno fatto qualcosa di buono, no? Quindi loro si sentono questa colpa che noi di traverso gli diamo. E questa mamma, per quanto cerchi di essere una madre, è talmente chiusa in se stessa che non riesce a vederla sta bambina. Quindi la religione, in realtà, in questo caso qui, è un qualcosa, è quello che sta capitando forse a noi, no? A chi è cattolico, cristiano, no? Allora, per educazione te fai questo, perché va fatto. Ma il vero senso della religiosità qui dentro non c'è, è stato perso. È stato perso in quel campo, da questa donna. E quindi tutto ciò che trasmette a sta bambina non è autentico. non è sentito, non lo sente come tale sta bambina, e quindi lei ne avverte una repulsione. Ha bisogno di crearselo lei questo qualcosa di diverso, ed è qualcosa che, lasciatemi passare, poi potete criticarmi quanto volete e credete, la sua religiosità c'è in quelle note di pianoforte che sente ogni sera, quella la lascia trascendere. La sua religiosità è su sto tetto dove lei fugge a guardare le stelle, a immaginare che può guardarle da più vicino se il papà volesse la caricasse sulle spalle e la facesse alzare un po' di più, no? E conosciamo allora l'altro personaggio, che è Babette. I miei ricordi: in primavera la linea Maginot era stata girata e il fronte sfondato. Lunedì 3 giugno 1940, nessuno credeva fosse possibile, quasi più nessuno resiste e si oppone all'avanzata della Wehrmacht. Le truppe francesi si disperdono disordinatamente nei campi, c'è chi diserta, chi si affretta a raggiungere le famiglie e organizzare la fuga, chi non si dà per vinto e combatte all'arma bianca fino alla fine con onore da francese. Circola voce che il generale de Gaulle sia scappato, il resto della Francia ancora libera rischia di capitolare in breve tempo. Al calare del sole l'orizzonte è una linea rossa fiammeggiante, uno spettacolo se il campo di battaglia non fosse pregno del sangue patrio. I colpi di cannone si avvertono sempre più vicini. A tarda sera Radio Londra annuncia bombardamenti tedeschi su Parigi. Per la prima volta dall'inizio della guerra in città echeggia il fragore assordante delle sirene, boati, cenere, fumo, macerie, sgomento, l'ombra della morte. Paura che qualcosa di terribile stia per avvenire, stia già accadendo. La Senna condensa in sé e riflette ogni bagliore, deve essere bellissima dall'alto. Una scia lattescente nell'oscurità, la guida benedetta dai piloti della Luftwaffe in ricognizione. Venerdì 14 giugno. Le saracinesche dei negozi sono abbassate, chiusi i bar, sprangati i chioschi delle edicole, sono fermi i treni della metropolitana, i tram, le vetture. Alle 6:30 del mattino l'avanguardia dei motociclisti tedeschi penetra lentamente per l'avenue in direzione dell'Étoile, come una lancia conficcata nel costato illividito dei parigini. Ecco, l'invasione francese di Parigi. Questa è la memoria, appunto, di Babette, ripensare al suo passato. E come diceva prima Gianfranco, Babette ogni sera, intorno alle 18, suona. Per chi suona? Anche stasera ho suonato per te, Dominique, con la stessa emozione della prima volta, come sarà anche l'ultima. Chi è Dominique? Dominique all'inizio è un po' ambiguo questo personaggio, no? Perché si può pensare, perché il libro è pieno di contraddizioni, ma sono le nostre contraddizioni di essere umani, no? Che sia l'amante di questa Babette, in realtà è il fratello che parte per la resistenza, per una missione, e non ritorna più. Poi non si capisce perché c'è una commistione con una mea, con un amante che sul serio c'è stato, ma c'è stato solo nella testa di Babette, no? E quindi cosa significa questo? Che questa donna è rimasta lì, in quella porta che si è chiusa e non si è più aperta, no? In questo sentimento fortissimo per questa persona che non si è chiuso, perché nella morte, quando si ama una persona, non muore l'amore, no? Resta lì. Ho presente tante persone anziane che perdono i loro cari e che sono vivi lì, presenti. Mi piace raccontare questa storia, che poi mi ha fatto un racconto. Vado in visita domiciliare da questa anziana, per cui si prospettava la possibilità da parte del figlio della casa di riposo. Piange e mi dice: ti faccio vedere perché non voglio andare. Mi accompagna in camera da letto, apre questo armadio e c'erano tutti i vestiti del marito ancora lì, marito morto ormai da 8 anni. Questo l'ho usato per il matrimonio, questo per la comunione, questo per il matrimonio del figlio. E allora, come dire, questa donna è tanto reale in questo sentimento, no? Cioè, è un sentimento che al di là ha preso e strappato dalla storia, un po' accomuna tutti, e quindi ci ripropone la separazione dai nostri cari, solo che questa donna non è riuscita a fare il salto successivo e quindi a dire: continuo a vivere, e quindi resta in quella storia. e c'è stata proprio questa richiesta di questo fratello, che dai ricordi della, di Babette emerge, dire: guarda, tu continua a suonare ogni sera, perché io prima o poi torno e ritorneremo a suonare assieme come facevamo una volta. E quindi lei vive nell'illusione che ciò riaccada. Poi dopo Babette però suonerà con qualcun altro, no? Sì, potremmo dire che vive non vivendo, in un certo senso, esattamente come la mamma di Marguerite, che è proprio fissata in quel trauma e certo, non riesce a vivere il presente, che invece specularmente è vissuto forse in maniera eccessiva dal marito. Certo. E poi dopo mi viene a dire che è un libro questo che vive di tanta speranza. Sta speranza è però nelle azioni di questa bambina, no? Cioè, sta bambina riesce a scardinare questi vissuti, questi meccanismi, queste chiusure, ed è un po' l'augurio che io mi faccio con tutti i bambini che incontro in situazioni disagiate, no? Io ritorno su questo perché la storia, e quindi gli anni 70, la Seconda Guerra Mondiale, Parigi occupata, non sono altro che un pretesto di ieri per raccontare oggi, no? Questo è quello che mi è interessato tantissimo, che quello che è accaduto lì, in quel pezzo di storia che ci accomuna tutti, anche come memoria, perché io non l'ho vissuto, per fortuna, però forse ne raccogliamo ancora i pezzi oggi, i pezzi peggiori da un certo punto di vista, no? Perché da lì siamo ripartiti, abbiamo ricostruito, prima noi e poi i nostri figli, quanto hanno di quei valori che sono ripartiti dopo? Che Europa è questa? Adesso, vabbè, senza allargarsi troppo, però l'Europa delle relazioni, dei non confini, ecco, ringrazio la casa editrice che è una casa editrice di confine, no? Questa storia racconta questo confine qui, no? Dove andiamo, no? Parlare del passato per parlare del presente, quindi questo è tanto radicato, questa storia ci serve come pretesto per vedere cosa possiamo fare oggi, no? Io la cosa più bella che trovo qua dentro, a parte sta Babette e questa bambina fragorosa, rumorosa, scavezzacollo, che se ne frega a un certo punto degli adulti, perché? Perché questo mondo che gli abbiamo creato non le fa bene, non le sta bene, non le stava bene negli anni 70, figurarsi adesso, andrebbe via, farebbe una ribellione, no? Quello che non riusciamo a fare noi, no? Senti, c'è un altro personaggio, per certi versi secondario, però ha una sua funzione, che è il personaggio della portinaia. Certo. Intanto, ecco, dobbiamo dire che la costruzione è in un condominio. Sì. E questo anche ha un suo significato, perché talvolta si vive in un condominio senza conoscersi, senza incontrarsi, però allo stesso tempo animati da tutta una serie di curiosità sull'altro, e l'altro non lo conosci, però lo conosci attraverso i pettegolezzi. La portinaia ha un po' una funzione di alleggerimento rispetto ai drammi che tu con molta delicatezza comunque racconti, e però rappresenta proprio chi vuol conoscere non per entrare in relazione, non per conoscere intimamente, ma per poterne dire male. Certo, perché l'umanità va rappresentata in tutta la sua differenza, no? Non tutti siamo buoni, non tutti ci approcciamo agli altri con spirito di conoscenza e di solidarietà e socialità, ma anzi lo facciamo perché ci interessa altro, no? Sta portinaia, che nasce anche un po' da un altro libro molto più famoso, che è L'eleganza del riccio, no? Dove la portinaia nasconde, sì. Però una cosa ci tengo a dire: quello è molto più filosofico, questo è molto radicato per terra, perché questo racconta dei fatti lì, io è tanto lontano da me quella, però lo vivo tanto vivendo in condominio, questa dimensione del conosco in distorsione l'altro. Quindi mi dà fastidio l'altro, oppure l'altro fa quel qualcosa per cui, ma non mi domando mai perché l'altro si comporta in quel modo, o dove finisce la conoscenza dell'altro legata semplicemente a un mio tornaconto personale, a un mio bisogno, no? Di nuovo mi riallaccio ad oggi e di nuovo la nostra povertà del non conoscersi, no? C'era un seminario l'altro giorno di servizio sociale dove io sono stato, mi è piaciuto tanto la dottoressa Fargione, che insegna qui a Bolzano in servizio sociale, che parlava di una sana dipendenza da parte dell'altro, no? Noi dovremmo avere questo, abbiamo paura della parola dipendenza, ma dipendere dall'altro in modo sano significa potersi appoggiare all'altro e poter e far sì che ci sia uno scambio tra l'altro. Quello che succede qui succede, ma viva Dio, è una bambina che lo rende possibile, è il contrario di quel che dovrebbe essere. Anche per quello è ricco di contraddizioni questo testo, no? Le contraddizioni dell'umanità in tutta la sua varietà, no? E hai citato l'eleganza del riccio, ne approfitto per ritornare a parlare della scrittura. Un libro a me è sembrato, in questo il libro ha una sua coerenza, è francese non solo nell'ambientazione, ma io ci ho sentito una serie di letture francesi. A me, appunto, come ho scritto anche l'articolo sull'Alto Adige, veniva in mente Modianon, perché il tema della memoria è il tema ricorrente di Modianon. Mi è venuto in mente in certe pagine, non so se è una tua lettura, Annie Ernaux, per questo tema proprio del racconto sommario in cui elenca gli avvenimenti e costruisce una cornice che però nello stesso tempo narrazione. Cioè, hai una formazione francese? Anche, diciamo che parto da tutt'altro, quindi da Bukowski, però non c'è nella scrittura. No, assolutamente. Però c'è tanto poi Erich Emanuel Schmidt, quello sì. Quindi storie legate al sociale, storie che hanno un'immediatezza. Qui è molto presente in effetti la scenografia, se vogliamo, no? E quindi il contesto storico, ma perché quello è il collante tra epoche diverse, quindi un gioco di specchi, dove il gioco di specchi è anche la possibilità attraverso i personaggi di poter passare dal presente al passato come vogliono, quindi è un po' da funamboli anche, no? Ci dice ancora qualcosa su un elemento poi fondamentale, che è la musica? Sì. C'è un elemento fondamentale in questo libro, è la musica, e poi vedremo in generale l'arte, perché la musica è, diciamo, la speranza, questa sonata che si ripete, la speranza di Babette di recuperare qualcosa di perduto nel passato. Sì, perché è un legame anche quello, no? Cioè, era anche l'unico elemento, se vogliamo, per rendere possibile quell'incontro in quel momento lì, no? Perché tra una bambina di 10 anni e una signora di 70 anni un po' è difficile far sì che avvenga questo incontro quando questa signora è chiusa, ma anche fisicamente all'interno della sua abitazione. Poi c'è, cioè, bello che questa bambina scavalchi, cerchi di vedere dalla finestra chi c'è dentro, cosa faccia, cosa ci sia nel salotto, quindi curiosità e paura allo stesso tempo nell'incontrare l'altro. Forse la musica ce li ha questi elementi, no? E la musica ci fa incontrare, certo, certo. E accanto alla musica c'è, ritorniamo alla scrittura, la scrittura terapeutica di cui parlavi all'inizio, perché alla fine, come scopre la bambina cosa è successo alla madre? Trovando un diario tenuto dalla madre, e dunque è la strada che la madre ha, come dicevi prima, per affrontare questo dolore. Certo, Margherita rischia di prenderla in quel momento lì, perché siamo negli anni 70, non è una cosa molto, passatemi il termine, potabile andare nel cassetto della madre chiuso, prendere il diario e venire a conoscenza di una realtà devastante che apre un mondo incredibile, sconosciuto a lei, no? Lì incontra la mamma, lì si dà tanti perché. Perché questa signora resta sotto la doccia, sotto l'acqua che continua a scivolare, rannicchiata? perché sta, questa madre non riesce a essere presente con lei, quindi a vederla per le sue sofferenze, ma anche per la, semplicemente per dire usciamo, andiamo a mangiare un gelato, non riesce a farlo questa signora. Ma perché? E lì riesce a comprendere che lì dentro, in quelle pagine, nero su bianco, c'è del sangue, no? C'è tutto quello che è indicibile, che tanti hanno raccontato, ma che sua madre non è riuscita a fare, non è riuscita a consegnare questo pezzo, a rielaborarlo, a capire e a darsi un perché, se un perché è pensabile rispetto a quello che è successo, no? E quindi, di nuovo, questo personaggio però rappresenta anche che perché abbiamo dato noi oggi, e se quel perché basta come spiegazione rispetto a un evento catastrofico da cui siamo venuti fuori, ma che forse non abbiamo superato del tutto, non abbiamo rielaborato per come si dovrebbe almeno. Sì, come si suol dire, la storia, al contrario di quel che si crede, non è maestra di vita, diceva qualche... L'anno scorso abbiamo avuto a scuola Fabio Levi, presidente della Fondazione Langer, ha fatto una bellissima lezione su Primo Levi, e la domanda che si è posta ai ragazzi è stata: come mai tutto il male si ripete? Perché alla fine, che se ne dica, la storia non è mai maestra di vita. Perché lui diceva, spesso la storia rimane sui libri, una cosa lontana, no? Tu leggi ma non fai mai, non ne fai mai un'esperienza, per cui poi la cosa si ripete. Parlavamo prima della Siria, di Aleppo, 20 anni fa era Sarajevo uguale, no? Siamo ancora qui a raccontare le stesse dinamiche. Quindi ecco, un libro scritto molto molto bene, molto molto godibile, con una lingua veramente molto elegante, molto, molto francese, quindi molto lontana anche dalle mode. Meno male che hai lasciato perdere Bukowski e le sue mutande sporche, perché in ogni poesia di Bukowski siamo pezzoni delle sue mutande sporche, perché abbiamo già dato. E quindi un libro che si legge con piacere. Io sentirei se c'è qualche curiosità da parte del pubblico, non so se qualcuno l'aveva già letto, no. E allora vi consiglio di leggerlo. Se avete qualcosa da chiedere all'autore, è a vostra disposizione. Ecco, io avevo letto parecchio tempo fa L'eleganza del riccio, e quindi sì, quando ho ricevuto la mail e ho letto riassuntino, sono stata proprio attirata a venire qua da questa combinazione dei due personaggi così diversi e che si incontrano e che si, ecco, e che si salvano reciprocamente, no? Ho trovato estremamente interessante il discorso della scrittura come terapeutica, ecco. E allora una domanda. Anche se è vietato dire troppo su un libro quando lo si presenta, no? Ecco, così. È proprio visto che anche diceva che è animato molto da un senso di speranza questo libro, c'è questo effetto terapeutico per le sofferenze dei personaggi principali di questo libro, di questo incontro e in questo ritrovare pezzi, quei pezzi di memoria che non riconosciuti e rimossi aumentano la sofferenza. Sì, allora io credo che certe sofferenze non si possono eliminare, assolutamente. Ciò che è straordinario è la conoscenza nell'incontro con l'altro, è la possibilità di trovare uno spazio per potersi aprire, per poterle rivivere, rivedere e quindi accettare. Già quello è qualcosa di fondamentale, poter accettare che ciò è successo, perché tante cose noi non le accettiamo, se le prendiamo su noi stessi, quindi sui nostri vissuti, su quello che ci accade giorno dopo giorno, certe cose non riusciamo ad accettarle, forse non le accetteremo mai, ma già il solo parlarne, prima a se stessi attraverso la scrittura e poi all'altro, è qualcosa di fondamentale. Noi siamo animali sociali, quindi la possibilità di avere l'incontro con l'altro ci fa guadagnare dal punto di vista della crescita se riusciamo a parlarci, a raccontarci, a trovare il tempo e lo spazio per accogliere l'altro. Quando accogliere l'altro significa poi stare con l'altro. Quindi una capacità fondamentale è anche sapere ascoltare, no? Non so se ho risposto. Signora voleva sapere se c'era il dietro fine o meno. Ma questo non si può, questo non si può rivelare. Ma non dico un lieto fine, non si riteneva proprio un lieto fine, ma a un, ecco, un percorso terapeutico che tutto, prende il via, insomma. Diciamo che qui quello che succede, qui è quello di straordinario che succede, sono piccole cose che sono dei passaggi fondamentali poi nella vita di una persona. Allora, immaginate questa persona chiusa in casa che riesce ad aprire questo portone, riesce poi a desiderare che l'altro la incontri. Quanto è? Quanta roba è? No, non la possiamo misurare, no? Ma per una signora che vive da sola, il cui unico scopo di vita è l'attesa di questo fratello che ritorni, è questo suonare ogni sera alle 6, dire però suono con qualcuno, arriva qualcuno per stare con me, io lo desidero, lo voglio, si riaccende qualcosa. Mi risento persona, mi riapproprio di qualcosa, metto a posto la casa, la riordino, vado a fare la spesa, preparo un tè. Sembrano sciocchezze, ma per chi è solo, chiuso, è tantissimo. Quindi, altro che speranza, molto di più, altro che lieto fine, secondo me. Se poi il lieto fine è dire, ah, chissà cosa succede di dire, no, anche perché non sarebbe aderente rispetto a... Sì, no, la rispondo a lui. Sì. Ma forse una considerazione sul fatto che anche i sopravvissuti ai campi, pochi sopravvissuti ai campi del congettamento, solo dopo 50 anni, 60 anni, si sono decisi a dare in giro per le scuole, a far conoscere le loro esperienze. Ma ci sono voluti veramente, dico, quasi troppo tardi, perché tanti sono già morti, e chi va, insomma, bisogna proprio prenderlo come oro, perché non vivrà più così lontano. Ci hanno messo veramente almeno 50 anni, 60 anni, prima di uscire a parlare, di uscire in pubblico e a parlare delle loro esperienze così tragiche. Assolutamente, ma una cosa fondamentale che la bambina ci dimostra è la curiosità che noi dovremmo avere rispetto a quello che è successo prima, no? Questa bambina, ripeto, trasgredisce per conoscere, per appropriarsi di una memoria che non le è stata data, no? Ne ha bisogno, tutti veniamo da una storia, tutti sappiamo i nostri genitori cosa hanno vissuto, cosa ci hanno trasmesso. Lei no, le è mancato questo pezzo, è apolide, è fuori dal mondo, è un immigrato senza genitori, no, ce li ha i genitori, c'è una realtà dove confrontarsi, è anche bella massiccia in quel periodo storico, no, ci sono dei fermenti, ma ha bisogno anche di qualcosa d'altro, di diverso. Altrimenti non riesce a fare i punti col presente. Non so noi adesso quanti abbiamo bisogno, i nostri figli, di queste cose qua, se riusciamo a trasmetterglielo almeno, no? Ma io parlo spesso con mia cugina, noi siamo figlie della guerra, diciamo, certo. Un pochino prima, un pochino dopo. Constatiamo con nostra meraviglia che i genitori che hanno vissuto delle esperienze terribili, come per esempio la cacciata dall'esodo dall'Istria, l'8 settembre, cose che hanno sconvolto la loro vita, non ne abbiano in realtà mai parlato. Mio papà una volta ha accennato all'8 settembre, a me questo dispiace molto, perché oggi vorrei chiedere, ma dimmi bene che cosa è successo da chi l'ha vissuto. Invece c'era questo silenzio è passato come un girare pagina, immagino io faticosissimo, doloroso, anche devastante, poi dal punto di vista sociale ed economico, tutta gente che ha ricominciato da zero, lasciandosi alle spalle la parte più produttiva e più attiva della vita, ha avuto comunque il coraggio di ricominciare da zero e di riproporsi con la... E ci dispiace molto questo silenzio, tante domande avremmo da porgere e chiedo di, ma perché hanno taciuto? Forse perché noi non l'abbiamo chiesto, perché quando eravamo signori non ci interessava. Ci interessa più adesso sapere sì, delle certo, cose. È logico, però è lo stesso di un minimo, tantissime domande verrebbero alla mente, come vivevano, non so, quando erano cittadini dell'impero austro-ungarico, come è stato possibile riproporsi dopo aver lasciato tutto in Istria, come è stato possibile trovare il coraggio di rifare concorsi statali a 40 anni per ricominciare una carriera ex no. Sì, però questa bambina forse è lei, signora, nel senso che questa bambina non poteva chiedere, non le veniva data una risposta, io non so se lei poteva chiedere, se aveva quella possibilità di dire papà. Non sapevo. Penso di sì, forse diciamo che la distanza emotiva mia da quegli eventi era talmente enorme che forse anche se avessero spiegato e detto di più non avrei capito, non avrei saputo vedere, mia cugina ha 6 anni più di me. E insomma, per tutti, però, altre varie amiche che ho, tutte in questa ovviamente fascia di età, tutte dicono no. Non ne sappiamo più che tanto, è rimasto un vuoto, un silenzio, un buio, una parola, un titolo di capitolo. Basta. Peccato. Certo. Quello che io conto dal libro è che certe sofferenze sono incomunicabili perché magari non hai la speranza che ti possano capire. Altre sofferenze portano con sé un vago senso di colpa, per cui pur essendo vittima è come se avessi sempre qualcosa da rinfacciarti o forse da domandarti, però ho sbagliato anch'io in qualcosa. Quello che io trovo molto fecondo nel racconto e anche sorgente davvero di gioia, di speranza, è questo salto generazionale tra Margherita e Babette, cioè questo ponte che si crea tra queste due, che in qualche modo dà una grande fiducia. È come se saltasse per certi aspetti l'età di mezzo, no? I genitori o cosa, per creare un ponte però molto fecondo, che forse è una cosa che accade anche oggi, l'incontro dei nonni, con i nipotini, la terza età. E oggi che poi i ragazzini pensano di avere un serbatoio di informazioni che è internet, no? Per cui non so, fuga dall'istro, non so, vario c'è, però i fatti staccati dalle emozioni, dall'interpretazione, no? Che invece è preziosissima, allora, come dire, viene restituito tutto questo nel libro, questo è veramente fonte di speranza. Certo, ma perché io penso che lì forse c'è qualcosa, anzi assolutamente di personale, no? Il bisogno di avere delle persone che abbiano il tempo di raccontarti, quindi una persona, passatemi il termine, anziana, ha la possibilità e la voglia e la volontà di mettersi là e raccontarti e dirti neanche il bisogno, e lì tu ti arricchisci. Io vengo da una piccola isola, ma dove come dire, la persona anziana è molto rispettata perché è quella che ha ancora il potere lì, è il capofamiglia, quindi è una famiglia molto patriarcale che resiste ancora, no? E dove però lì effettivamente quella persona che mantiene la sua importanza non viene messa in un lato, non viene accantonata, no? Io faccio fatica qui, vi dico la verità, da persona del sud, anche per il mio lavoro, a capire la casa di riposo, no? Perché da noi gli anziani ancora, per quel che si può, restano a casa. Ha un suo senso, per quanto difficile. E allora sì, c'è questo salto generazionale, ma perché è un qualcosa per me di normale. È un qualcosa che nella sua povertà, quindi condizione del paese, ha una sua ricchezza e un suo perché. E quindi proprio quell'incontro alla fine è molto più produttivo, prolifico per la bambina, lo cerca come il pane. Questa signora ha tutto il tempo volendo, tutta la possibilità, deve solo volerlo. Come l'apro questa chiave, questa serratura chiusa? Questa bambina di qua, di là, stuzzica oggi, stuzzica domani, apro questa porta, i bambini riescono ad aprire tutte le porte e ti sorprendono continuamente. Hanno qualcosa che noi abbiamo perso. Ed è l'istinto, è che quello che io mi metto in testa di voler raggiungere, in un certo senso, lo devo raggiungere in qualche modo, no? Beh, è la freschezza della mente che non ha pregiudizi, certo. Quello di Cocolicino di condominio, se andiamo molto cauti ad esprimere certe idee o opinioni, perché ci troviamo di fronte a personalità compiute, con me. Magari uno si pone anche lui domanda, dicendo questo vado a urtare, poi obbligo per obbligo di cortesia, eccetera, eccetera. Il bambino è, insomma, come chi sa chi, per esempio, ha avuto degli scolari e una fascia di età così di scuola media, è un serbatoio, insomma, che non ha pregiudizi, si tratta semplicemente di informarlo in una maniera corretta, che non sia, insomma, naturalmente traumatica, che però aiuti e, insomma, incentivi alla comprensione e all'osservazione di determinate cose. Certo signora, però poi dopo sul condominio ci fermiamo sul portaombrelli che non lo devo mettere fuori o che lei non deve mettere fuori, perché il regolamento condominiale dice questo, e quindi vado dritto su quello e mi fermo, e lì i rapporti si chiudono. Magari glielo posso dire in altro modo, non andando lì con una lama nel burro, no? Perché anche sta signora si lamenta di sta bambina che è lì e fa casino, col suo gatto che magari gli piomba in casa e gli rovina qualcosa, no? Però se poi abbiamo la capacità di spostarci un po' da quella rigidità, da quell'essere fermi sulla consuetudine, sulla normatività, magari riusciamo a scoprire che l'altro, che c'è tanto nemico, in realtà ha anche lui dei pregi, no? Poi con tutte le liti di condominio possibili e immaginabili. Però non so se perché siamo a Bolzano o se ciò avvenga anche in altri comuni, è molto difficile. Non mi si accorge che da 30-35 anni sta in una casa e forse ha scambiato 100 parole, forse in 35 anni, con lui, perché scappano terrorizzati dall'idea che non imbastisca una piccola conversazione. Torno a dire, può darsi che questa sia per te. No signora, no, io penso che succeda in tutto il mondo, dopodiché è una critica a questo modo di essere. Il libro è una critica a questo, vuole aprire porte, non chiuderle. Non ho capito. Partendo da una realtà di chiusura e di non conoscenza, perché poi per assurdo sta mamma, che è questa signora che suona il pianoforte, hanno vissuto una storia assieme, e quella storia così tragica, e non si riconoscono. Incredibile. Io ti ho tenuto la mano su una camionetta in un momento così tragico e non ci conosciamo, non ci ricordiamo quel momento, l'abbiamo eliminato, reset, buttato nel cestino. Forse non va bene, mi permetto di dire. Ecco, no. Però c'è anche, cioè, non voglio, però c'è anche un discorso del senza che non va giudicato, secondo me, se tu sei pronto a parlare con me, no? Cioè, può essere anche che, no, che tu non è che non parli perché non comunichi o perché sei chiuso, cioè, no? Ma perché ci sono gli eventi, no, che ti hanno talmente toccato che tu non sei, poter succedere qualcosa per cui si arrivi a questa, cioè non è che lo decide qualcuno o c'è il tempo. Questo fatto anche noi ce lamentiamo del non racconto di alcune cose che ci interessano, penso che ognuno di noi ha questi impianti, anche senza pensare alla Shoah o all'Istria, o anche pensando a storie familiari, e probabilmente quello che è stato raccontato non è solo dovuto a una non voglia di comunicare, ma che c'era una incapacità, una difficoltà a raccontare alcuni episodi che ancora dentro. Sì, ecco, io dico, reagivano con il silenzio. Sì, sì, sì. Io sono d'accordo sulla scrittura, sì. La scrittura che aiuta a calmare l'angoscia o l'ansia, perché la obbliga a dare una cornice precisa. Però invece appunto i nostri genitori, diciamo, reagivano invece. Ma io volevo solo questo silenzio, non giudicarlo. Questa no, è l'unica no, cosa, non mi interessa. Ma che un silenzio che non segnala chissà che cosa, ma che probabilmente anche una ferita talmente forte da non uscire. Io penso ricordare e raccontare avrebbe riaperto magari una, insomma, una ferita che si era appena potuto riaccostare, ecco, per cui si preferiva passare oltre e guardare. O anche semplicemente posso pensare, e ci ho pensato tante volte, dire ti preservo figlio da quel qualcosa che non vuoi assolutamente che si ripeta e che tu possa vivere. Beh, ma c'è nella narrazione questo potere di evitare, non c'è, insomma, assolutamente, poi le storie si... La signora che scrive, lo scrive per sé, non per dire alla figlia un qualcosa, assolutamente. Lei, che sta bambina lì, sono d'accordissimo, lì la signora non è pronta a parlare, non vuole parlare, lì è proprio l'età. Il voler aprire quella porta che è chiusa, quello scrigno, voglio vedere dentro cosa c'è, voglio vederti, voglio conoscerti, basta, non voglio più che tu sia chiusa in te stessa e non mi dica nulla, io non riesco a capire cosa sta succedendo, cosa succede a noi, perché la tua chiusura fa male a me nella mia crescita. Io non ti conosco, mamma, le scelte che mi stai facendo fare, tu mi porti in sinagoga, mi vuoi far fare un rito, cos'è sta roba? Non l'abbiamo mai fatto, non abbiamo mai pregato in casa, non è mai successo, eppure mi stai portando lì, perché? Da dove nasce questa cosa? Rabbino, chi è il rabbino? Ma non lo conosco, eppure vedo sto uomo nero che per me può essere di tutto, no? Tu parli con lui piuttosto che con me, mi dice di andare di là, ma non faccio quello che dici tu, assolutamente. Il rabbino, gli do un calcio nello stinco, figurarsi se ascolto quello che mi dice. Succede questo, succede, perché è reale. E quindi c'è anche la leggerezza poi dell'età, no? In una storia tanto forte c'è bisogno di leggerezza. E la leggerezza non può che darle un bambino, è il modo con cui questo bambino vede il mondo, quindi limpido, puro. Non vi resta che leggere il libro. No? Va bene, grazie. Il libro a prudente edita qua, se qualcuno vuole acquistare, giustamente mi ricorda, con le selle.